studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! Ebbene, come ogni mercoledì, L'Onda in Onda dalle 18 alle 20 vi tiene compagnia qui su Radio Panorama degli studi di Radio Panorama Termini Imerese. Oggi sono solo perché il mio conduttore Antonio ha deciso di mancare anche oggi, ma ha abbandonato in questa puntata, ma dietro il vetro c'è il fedele Boom, regista. Fedele. Ciao, ciao. Sì, sei sempre fedele, sempre fedele. Basta, come non ci sono io qui a tirare avanti questa baracca. A portare avanti il carretto. Allora, la settimana scorsa ci siamo lasciati con una bellissima notizia in diretta, visto che noi andiamo in onda come... voi sapete solo il mercoledì scorso è stato eletto il Papa, mentre eravamo proprio in diretta e mentre giravamo il nostro Harlem Shake qui dentro gli studi. Quindi diciamo che abbiamo salutato molto bene il nuovo Papa, che ormai stringe le mani, stringe le folle a tutti. Non siamo riusciti... Stringe le folle. Ma perché è possibile che lui quando si trova in mezzo alla strada, no, c'è qualcuno in panne, mette la macchina in folle e quindi lui stringe le folle. Questa era per salvarmi il culo. No, dicevo che non siamo arrivati a dare il nome però del Papa. Peccato, perché sarebbe stato anche molto bello annunciarlo. Quindi ci sono state un bel po' di novità. Si sta sbloccando la situazione alle camere, ma lo vedremo più avanti. Anzi, abbiamo con noi proprio un'intervista con un deputato neoletto alla Camera dei Deputati, appunto. Poi avremo un'intervista con gli U-Ross, il gruppo per la nostra rassegna indie rock e pop, e infine ovviamente la nostra classifica delle 10, alcune notizie, e poi chiaramente Marco dei film brutti, che data la lezione appunto del Papa vi delizierà con un bellissimo film di cui io già so il titolo ma non ve lo anticipo perché è molto bello. Vi dico solo che torneremo un po' nel Medioevo. Ma detto tutto questo, questa è la nostra anteprima e non possiamo iniziare se non ovviamente con la nostra sigla. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, pombo, clap, piodo, ciappiamo, se va, chiamare! 1, 2, 3, 4! Noi siamo i giovani, giovani più giovani. Torniamo in diretta. Allora, non abbiamo dato i contatti nella nostra anteprima, quindi radiopanorama.info.eu per chi vuole vederci o ascoltarci in streaming sul web, oppure sms al 380 7690204 per chi vuole scrivere e interagire con noi, e ancora i social network twitter.com/ondainonda, che è il nostro account ufficiale dell'Onda in Onda, il programma dell'Onda in Onda, e poi facebook.com/londa in onda invece con la L senza apostrofo, chiaramente è tutto attaccato, per scriverci sulla nostra bacheca di Facebook oppure mandarci un tweet. Io ho già annunciato in realtà nel mio account personale che sono in diretta sull'Onda in Onda. Bene, ricordiamo che cosa avremo oggi con noi. Abbiamo annunciato un deputato neoletto alla Camera dei Deputati, poi Liu Ross per la nostra segna indie rock e pop, e infine Marco dei film brutti. Io direi di partire, caro Bummo, se siete d'accordo con l'anticipo di quella che è la nostra classifica. Io vorrei lanciarne due oggi, due belle classifiche, una un po' nerd e una, diciamo, un po' più popolare, no? Allora, la prima della classifica che vorrei lanciare riguarda i 10 anziani che giocano ancora ai videogames, e tra questi mi ci metto anch'io, perché essendo della decade della decade di 80 come te, no, caro. Io non sono tu 80. Sei della decade 90. Io sono 90. Tu sei 90, sei un po' più giovane. Li ho passati tutti questi videogiochi, quindi sono già anziano e gioco ancora a questi. Ma anch'io questi giocavo giochi. E gioco anche ancora tu gioca, quindi giochi. Sei vecchio anche tu. Vedremo chi dei nostri ascoltatori si ritroverà in questa classifica. E poi la seconda classifica che avremo oggi nella nostra puntata sono le 10 cose che ti fanno salire il Cristo in macchina, cioè le 10 cose che ti danno veramente fastidio. Bene, io direi che possiamo annunciare subito il primo pezzo e poi partiamo con le notizie e ci ascoltiamo i Luminers con Hohei. Siete collegati. Radio Panorama. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. Adesso io vorrei leggervi due di quelle notizie, secondo me, che è secondo tra l'altro tutta la gente che ci ascolta e che ci si appassiona, le notizie che noi diamo sono assolutamente vere, due notizie, diciamo, una all'opposto dell'altra, perché c'è un po' a chi troppo, a chi niente. Una notizia ovviamente di quelle che riguardano la vita di tutti i giorni della popolazione, che non possono non interessare chiunque, diciamo che questa volta riguarda un argomento diverso da quello trattato nelle altre, sì, puntate, completamente diverso, possiamo dirlo. Boom. Sì, ma siamo stanchi di parlare solo della stessa cosa, quindi cambiamo completamente argomento, parliamo di sesso. Okay. Donna chiede il divorzio, mio marito è il pene piccolo. Ovviamente la donna si chiama in un nome che io devo pronunciare a modo mio. È un nome bellissimo con tre consonanti di fila. Znag. Znag. È un po' inedito. Znag. Una donna di 52 anni di Taiwan ha deciso di divorziare perché il marito è il pene piccolo. E lui come si chiama? Poteva chiamare Zhu. Zhu. Zhu. Il marito, quindi erano Zhang e Zhu. Perché Zhu non va su. Ma di 55 anni non è neanche riuscito a mantenere la promessa prematrimoniale: sesso almeno 3 volte alla settimana. Ah, era una promessa. Era una promessa prematrimoniale. Il suo pene è così piccolo, ha dichiarato Znag. È come quello di un bambino, soltanto 5 centimetri. Non abbiamo mai fatto sesso durante il matrimonio. Ci siamo incontrati nel 2008 grazie ad un amico in comune e ci siamo sposati 5 mesi più tardi. Ma E in tutti questi 5 mesi, scusa, non hanno consumato. Non l'ha Evidentemente visto. Jung avrebbe voluto fare sesso con Su anche prima del matrimonio, ma lui si è rifiutato per motivi religiosi. Poi la scoperta dopo il matrimonio è anche impotente e irresponsabile, conclude Jung. I motivi non erano soltanto religiosi. Non erano soltanto religiosi, mi sa. Questa è una delle notizie. Di logistica, insomma. Esatto. Ma invece c'è un'altra persona. Questa è bellissima, questa io sono è molto curiosissimo. Bella. Il titolo è: sono nato senza pene, ma sono stato con oltre 100 donne, quindi quest'uomo non stato è... a fare cosa? No, non lo so. Dichiara Andrew Wardle. Andrew Wardle, 39 anni, di Stalebridge, nella contea di Greater Manchester, in Inghilterra. Ah, Manchester, quindi vabbè, dove c'è il nostro fido Daniele, che ci ascolta tra l'altro da Manchester. Sì. Quando può ci ascolta sempre da Manchester. Andrew, di professione bodyguard, è nato senza pene. Quindi Daniele, quando troverai un bodyguard senza pene, è Andrew Wardle. Magari lo conosce, sì, è possibile. Tra pochi giorni però, con un'operazione complicata, un lembo di pelle del suo braccio sarà trapiantata e innestata nell'area pubblica. Dopo l'operazione, così Andrew sarà in grado di avere rapporti sessuali completi. Intervistato dal tabloid britannico The Sun, Andrew ha raccontato la sua vita complicata tra le operazioni e bullismo. Ancora non ci posso credere, finalmente avrò un pene perfettamente funzionante. Potrò iniziare a vivere come una persona normale, potrò fare molte cose che le persone danno per scontato, continua Andrew, come il sesso o mettere su famiglia. No, perché il caro Zoo, per esempio, non ci è riuscito, Andrew, quindi mettetevi in contatto. Però Zhuang, cioè, sarà contenta di poter sposare magari Andrew. Però consoliamo Zhu, che c'è anche chi è messo peggio, cioè, di lui. Esatto, che è messo, cioè, peggio. Ce l'ha 5 centimetri, ma c'è chi proprio... Esatto, non dovremmo dirlo a Zhuang, in realtà. Andrew, dopo essere stato abbandonato dalla madre 17enne, ma è una storia tristissima, è stato adottato da una famiglia di Stalebridge, passando l'infanzia infelice tra ospedali e operazioni. Ben 15 solo per ricostruire la vescica. Quando andavo a scuola sono stato anche vittima di bullismo. Prima ragazza, a 17 anni, racconta Andrew, ho fatto uso di ecstasy e LSD e ho anche tentato il suicidio. Ho veramente toccato il fondo. Poi finalmente la svolta. Presto scriverò un libro sulla mia vita, conclude Andrew. E beh, alla fine ognuno riesce a trovare il lato positivo in tutto, caro Bumbo. Dopo queste due notizie, diciamo, una è il contrario dell'altro, io direi che la giusta conclusione sarebbe quella di Zhuang, che contatti ormai il diciamo munito di pene Andrew, che tra pochi giorni riceverà questa operazione, con la pelle della la carne del braccio ricostruiranno il suo pene. Ma come fanno? Io non lo so, non so come faranno, però insomma sarà una bellissima storia d'amore se avverrà, e noi la vorremmo raccontare. Saremo felici di raccontarla in radio, dato che abbiamo fatto lo scoop l'ultima volta del Papa, perché non lo non scoop tra Zhuang e Andrew. Va bene, allora abbiamo detto troppe stronzate, speriamoci subito un altro pezzo. La musica che preferisci. Radio Panorama. Musica allo stato puro. Rientriamo subito con la nostra classifica dei 10 anziani che giocano ancora ai videogames. Ricordiamo che oggi daremo due delle classifiche delle 10, il sito che, da cui prendiamo queste classifiche, ricordando tra l'altro invece che alle 19, dopo la pausa pubblicitaria, ci sarà l'ormai attesissimo TG Lercio. Abbiamo ricevuto molti complimenti su questo TG, ringraziamo gli autori che sono i ragazzi di Lercio.it, vi invito a guardare il loro sito perché veramente fa ammazzare dalle risate, sono dei ragazzi bravissimi che noi abbiamo il piacere di sponsorizzare tramite questo TG, quindi vi invito veramente ancora a guardare la pagina, sia la pagina Facebook sia il loro sito Lercio.it, andateci, fidatevi. Allora, i 10 anziani che giocano ancora ai videogames, iniziamo subito con la classifica. Al posto numero 10 c'è l'Evergreen Super Mario Bros. Il giocatore romantico e sognatore, amanti del baffo alla Moretti, sostenitori incalliti della cavalleria, non badate a nulla pur di conquistare il cuore di una donna, siate anche poco realistici o razionali e credete che una donna bellissima possa stare con voi soltanto sistemando due tubature, vivete in un porno anni 70. Beh, in effetti non erano male, a parte il... No, vabbè, ne possiamo parlare dei porno dei 70, boom. Certo, è l'orario 70. Ho detto, sì. No, vabbè, andiamo avanti, io avrei troppe note negative sui porno anni 70. Alla posizione numero 9, Duke Nukem, il rude mascellone, ignoranti. Ecco cosa siete, degli ignoranti. Nel mezzo di una situazione caotica, voi vi fermate e ridete di tutto e tutti. Per voi, soldi e tette rappresentano il meglio della vita. Nella realtà siete dei culi flaccidi che al solo sguardo della tabaccaia devono correre in bagno. Beh, io Duke Nukem non ci ho mai giocato, quindi diciamo mi ma posso dire... Ma cos'è Duke Nukem? Duke Nukem? Non lo so, cioè non ci ho mai giocato, però vedo l'immagine, diciamo, è abbastanza deprimente. Una donna con delle... tra l'altro delle calze blu senza... non lo so, senza una forma. Va bene, andiamo alla posizione numero 8, scusate, devo tossire. Street Fighter, l'incorruttibile, tra l'altro con una foto di un bimbo minchia. Sei tra Ryu e... Ma non è un bimbo minchia. È un po' un bimbo minchia. È durissimo, ma dove? Vabbè. Scritto lì. Se tra Ryu e Ken scegliete il primo, vuol dire che siete gente di sani principi. Per voi il caffè vero non è da Starbucks, così come le arti marziali non possono avere come portabandiera un americano biondo. Beh, io ci giocavo tra l'altro e sceglievo però Ken. Non so perché, mi piaceva di più Ken. No, non ci ho mai giocato. Le arti marziali devono essere appioppate ad un giapponese che non ride mai e con la fascetta rossa in testa. Ecco, questa era la posizione numero 8. Street Fighter, tra l'altro, mi ha accompagnato per molti anni col mio Nintendo, Super Nintendo 64. No, il mio era proprio Super Nintendo, quello vecchio. Giocavo con la cassettina. Ryoken! Urlavano come i pazzi quando... Come? Ryoken! Cioè, praticamente... O Ryu o Ken avevano un colpo che diceva Ryuken. Sì, è come se, non lo so, io e tu siamo Alessandro e diciamo Alessandro, capito? Ah, no, non ha senso questa cosa, però era figo perché loro sono giapponesi, quindi possono fare un po' quello che vogliono. Sì, ma loro sono sì, giapponesi. Sì, loro sono giapponesi. Hanno... Va bene, questa è la posizione numero 8 della nostra classifica dei 10 anziani che giocano ancora ai videogames. Se ve ne ricordate almeno 3, siete già vecchi. Quindi, chiaramente, Super Mario Bros. Beh, impossibile non ricordarlo. Duke Nukem e Street Fighter. Per sapere i prossimi pezzi, restate con noi perché ci ascoltiamo un pezzo per le pubblicità e poi saremo in un'intervista. suonando le canzoni più belle. Vi stiamo suonando le canzoni più belle. Vi stiamo suonando le canzoni più belle. Radio Panorama, la prima radio che te le suona. Stai ascoltando L'Onda in Onda. She makes me think of lightning and skies. She's sexy. How else is God supposed to write? Her name. She's sexy. She wants to move. But you're hogging her. You're guarding her. She wants to move. Damn. Mister, look at your girl. She loves it. Look at her. I can see it in her eyes. She, come here. Hope this lasts forever. Hey! Her offbeat dance makes me fantasize. Her curves. She's sexy. Her ass is a spaceship. I want. She wants to move, but you're hogging her, you're guarding her. She wants to move, she wants to move, but you're hogging her, you're guarding her. Beat it, mister, look at your girl, she loves it. I can see it in her eyes, she. Her. Bring it, mister. Look at your girl. Damn. She loves it. She loves it. I can see it in her eyes. She hope you last forever. Rientriamo dopo la pubblicità e dopo la nostra classifica. Ricordiamo un pochettino gli ospiti che avremo stasera qui in trasmissione con noi. Fra poco dovrebbe essere in collegamento il neo eletto deputato alla Camera Erasmo Palazzotto, mentre successivamente avremo un'intervista per la nostra rassegna pop e indie rock gli Uros e infine Marco di Film Brutti farà autopunire con un film abbastanza tragico che richiama un po' il Medioevo. Il Medioevo ci saprà dire lui bene di cosa ci parlerà. Intanto vi informo che continuano le consultazioni. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è andato poc'anzi Riccardo Nencini in rappresentanza del gruppo parlamentare al Senato per le Autonomie e il Partito Socialista Italiano e poi alle 18 invece ha chiuso Andrea Oliviero per il coordinatore politico insieme a Lorenzo Dell'Ai, capogruppo per la Camera, e Mario Mauro, capogruppo per il Senato, e poi infine Mario Monti, che non c'è stato per ragioni di correttezza istituzionale, diciamo, ha indicato soltanto la linea durante la riunione dei parlamentari e dei dirigenti di Scelta Civica. Quindi queste sono state le ultime consultazioni. Allora, mi comunicano dalla regia che abbiamo in diretta con noi al telefono Erasmo Palazzotto, deputato alla Camera dei Deputati. Ciao Erasmo. Ciao a tutti. Buonasera, benvenuto. Io ti do del tu, dato che ci conosciamo, quindi è inutile fare la farsa. Buongiorno onorevole, come sta? Sei d'accordo? No, dico che purtroppo ci conosciamo da troppo tempo. Purtroppo. In generale preferisco che continuino tutti a darmi del tu. Bene, bene. Quindi ho ricevuto formalmente dalle istituzioni una ammonizione dalla conoscenza personale. Va bene, allora Erasmo, raccontaci intanto come, diciamo, tu sei stato un neoeletto alla Camera. Raccontaci, prima di farti parlare delle novità del giorno, com'è stato questo ingresso alla Camera dei Deputati? Devo dire che arrivare in quegli scranni dove i nostri padri costituenti hanno scritto la storia della nostra democrazia è stata un'emozione. Certo, poi li ho visti un po' deturpati da alcuni personaggi dello spettacolo che hanno caratterizzato purtroppo la storia recente della nostra scena politica, e però comunque mantiene il fascino di un'istituzione che spero torni ad avere la centralità e il ruolo che merita. È un'istituzione che troppo spesso è stata separata dai cittadini, che invece dovrebbe essere di nuovo riattraversata alla gente. Allora, io non ho presentato lo schieramento di cui fai parte. Tu fai parte dello schieramento di Sinistra e Libertà, quindi della coalizione Italia Bene Comune con Bersani. Diciamo che i neoeletti, quindi la gente nuova, quella che le persone si aspettano populisticamente parlando, ci sono anche nelle altre coalizioni, come anche credo nella coalizione di centrodestra, oltre che nel Movimento 5 Stelle. Voi vi siete incontrati con gli esponenti delle 5 Stelle in questo caso? Sì, considerate che questo è il Parlamento più giovane d'Europa, è anche quello più giovane della storia in Italia, e questo, diciamo, è un segno positivo e non riguarda solo il Movimento 5 Stelle, ma devo dire anche la rappresentanza della coalizione di centrosinistra, del Bene Comune. È una rappresentanza che ha un sacco di giovani, spesso competenti, amministratori locali, come accade in Sicilia, dove sono io che ho appena fatto 30 anni, ma il PD eletto aveva candidato come capolista Magda Culotta, una giovane sindaca appunto del territorio madonita, cioè c'è un rinnovamento complessivo della classe dirigente. Ho incontrato alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, soprattutto quelli siciliani, e devo dire che c'è molta diffidenza, ed è una cosa che mi dispiace, perché al di là delle questioni relative alle scelte politiche che si possono condividere o non condividere, il Parlamento, lo dice la parola stessa, è il luogo del confronto, è il luogo dove si parla, dove si affrontano le questioni, i problemi reali, e si possono trovare delle convergenze su problemi concreti senza necessariamente trasformarli in accordi politici. Questa è una, diciamo, come dire, delle derive quando si prendono delle posizioni che sono troppo rigide, e si finisce col perdere di vista qual è il vero obiettivo con cui noi siamo stati mandati là dentro, che è quello di amministrare e governare nell'interesse dei cittadini e non in quello delle nostre forze politiche. Guarda, Erasmo, noi avevamo tra l'altro invitato un esponente del Movimento 5 Stelle a provare a fare un confronto anche separatamente all'interno di questa trasmissione, almeno a parlare con noi, una deputata eletta nelle file del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione della Sicilia, quindi tra l'altro palermitana, e purtroppo ci ha dato picche, quindi hanno deciso di non di seguire la linea, di non farsi intervistare e di non parlare con la stampa, i giornalisti, se possiamo definirci così, cambi. Quindi vedremo come sarà l'evolversi della situazione. Senti, un commento sul giorno. Oggi sono state le consultazioni da Napolitano. Per ultimo è andato Vendola. Voi che siete lì alla Camera, beh, avete una maggioranza schiacciante come coalizione del centro-sinistra, ma una previsione, come la vedi la formazione di un possibile governo? Io penso che bisogna affidare l'incarico di formare un governo a chi ha vinto le elezioni, seppur con un margine risicato al Senato grazie a una legge elettorale che non garantisce la governabilità. Detto questo, penso appunto che bisogna che chi ha vinto le elezioni si presenti davanti al Parlamento con una proposta che sia credibile e che abbia appunto quella spinta al cambiamento che in generale il risultato di queste elezioni ha rassegnato alla politica. Poi ognuno farà le sue valutazioni. Spero appunto che si torni al centro e mettere la politica, i problemi reali e la necessità di fare un governo per il Paese, anche in via transitoria, però di fare un governo che affronti le emergenze reali. Penso al fatto che adesso scadranno le casse integrazioni e che servirà un governo che affronti l'emergenza industriale. E sicuramente ci sarà anche l'aumento dell'IVA al 22% se non si forma un governo. ci sarà l'aumento dell'IVA, ma ci saranno tantissime altre emergenze che riguarderanno in generale la scadenza di provvedimenti che sono stati presi. Citavo prima la cassa integrazione, ma c'è anche appunto da rivedere e rinegoziare in Europa le condizioni che sono state concordate dal precedente governo, che stanno portando la nostra economia verso politiche recessive, e soprattutto abbiamo anche vista di un'instabilità che purtroppo è data da questa legge elettorale, quindi di nuove elezioni possibili. Dobbiamo da subito procedere a una riforma del sistema elettorale, a una riforma del sistema politico che preveda sicuramente una riduzione dei costi e della modalità di gestione quindi del potere. Quindi un governo di transizione? Io penso che bisogna fare un governo, poi se questo non si potesse fare, penso che bisogna anche provare la via della transizione per fare le riforme economiche più urgenti e fare la riforma di un sistema istituzionale gravemente compromesso tra questi anni di berlusconismo e delle riforme elettorali che ci ha propinato, per poi tornare al voto, ognuno fa i propri programmi dando. Ma un governo a guida 5 Stelle, a guida Bersani, o un governo misto con anche il 5 Stelle all'interno di qualche ministero? Io mi auguro che il Movimento 5 Stelle, forte anche del grande consenso che ha ricevuto in questo tornato elettorale, si voglia assumere la responsabilità del risultato che ha avuto. Capisco che non si aspettavano questo peso politico, però i cittadini che hanno votato il Movimento 5 Stelle hanno votato perché volevano dare un segnale di cambiamento. Il cambiamento si ottiene governando, e quindi spero che loro vogliano assumersi questa responsabilità e di portare a casa una parte del loro programma. Non dico tutto perché alcune parti non le condivido, però ci sono punti interessanti su cui si possono trovare convergenze, e rinunciando ognuno a un pezzo del proprio programma si può fare assieme un nuovo programma che porti cambiamento e anche un po' di benessere, un po' di risposte ai problemi dei cittadini che in questo momento guardano la politica con molta diffidenza, anche e soprattutto perché la politica sembra giocare a scacchi, no? Per vedere chi è che ottiene un vantaggio in più, sì, o un po' di consenso in più alle prossime elezioni, invece di affrontare i reali problemi del paese. Quindi sei d'accordo, diciamo, con l'analisi di Severgnini del Corriere della Sera, che dice che Grillo ha buttato la rete e si aspettava di prendere un po' di pesciolini, in realtà ha pescato una balena. Va bene, senti Erasmo, io l'ultima domanda prima di chiudere, perché già ci stiamo dilungando molto. Della Boldrini e di Grasso vorrei evitare di parlarne, visto che si sono fatte tutte le analisi possibili, ma la notizia è reale, e anche se non ti riguarda, diciamo, personalmente, ma riguarda tutti noi, almeno come siciliani, è la scelta di Crocetta, insieme al Movimento 5 Stelle, col grande appoggio del 5 Stelle, di abolire le province. Un commento su questa vicenda? Io credo che le province fossero un organo che svolgevano alcune funzioni, non è vero che erano degli organismi inutili. Penso però che in un momento anche di grande crisi e di risparmio economico si possono cancellare quegli enti, se si ha il coraggio fino alla fine di attribuire quelle competenze agli enti locali più vicini ai cittadini, che sono i comuni, e per alcune cose alla regione, abolendo quelle province. Per cui ha fatto bene Crocetta, è chiaro che questo è un atto di indirizzo che prevede che quella legge e l'abolizione definitiva venga fatta entro il 31 dicembre, ma è un segnale molto forte che arriva dalla Sicilia, dove si dice che appunto quando si vuole che si mette a disposizione di un processo di cambiamento, come ha fatto anche il Movimento 5 Stelle in Sicilia, si possono ottenere dei risultati. Penso che se il Movimento 5 Stelle collaborasse anche a livello nazionale, come ha fatto in Sicilia, si potrebbe ottenere il cancellamento delle province in tutta Italia. Bene, dopo questo appello accorato al Movimento 5 Stelle, Erasmo, noi ti dobbiamo ringraziare, ti salutiamo, ti ringraziamo per questa intervista, per il tempo che ci hai dedicato, ti auguriamo un buon lavoro, in bocca al lupo nel tuo percorso da parlamentare. In bocca al lupo a tutti noi, esatto, e soprattutto agli altri che non si sono voluti fare intervistare, che comunque lavorano in questo cammino nuovo per alcuni e vecchio per altri. Erasmo, grazie ancora, noi passiamo subito al prossimo pezzo e ritorniamo subito dopo. Close enough to start a war. All that I say, you owe. hard as you try, you know I will never be knocked down. I can keep up with your turning tables under your thumb. I can breathe. So I won't let you close enough to hurt me. No, I won't ask you. You just deserve me. I can give you how you think you give me. It's time to say goodbye. Turning tables. Siamo per chi durante la diretta ha sentito che diciamo i suoni erano ridondanti. Purtroppo il computer ci ha fatto un brutto scherzo, abbiamo ripreso il controllo, quindi continuiamo col programma. Ci ascoltiamo ovviamente adesso un pezzo perché poi c'è la pubblicità, rimanete con noi. E per chi ha ascoltato la replica invece tutto questo non sarà mai successo. A muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. El que no brinque, el que no salte, el que no pique, eche un desmadre, el güey que quedó conforme, el que cambió lo del informe, el que no quita la papa, también todo el que lo tapa, el que no hace lo que quiere. Toda su familia y a Iñaki, su hermano. Buonasera e benvenuti alla puntata settimanale del TG Lercio a cura dell'Onda in Onda. Andiamo subito alle notizie. Governabilità. Napolitano convoca uno psicologo. Spunta in rete il primo piano segreto di Beppe Grillo per invadere la Polonia. La Cina abbandona la politica del figlio unico e abbraccia quella dei tricicli volanti. Beyoncé si china in spiaggia per raccogliere una conchiglia. 15 morti. Roma, nuovo sit-in dei parlamentari del PDL in un ristorante del centro. Intanto a Brescia la popolazione scende in piazza. Non vogliamo i processi di Berlusconi. La Consob scopre nuove menzogne sul Monte dei Paschi. Siena non sarebbe nemmeno in Toscana. Collodi, ritrovato il manoscritto di Pinocchio. Nella versione originale, dopo che il fuoco ha bruciato le gambe del burattino, Geppetto gli costruisce delle protesi in carbonio, con cui Pinocchio vince i 200 metri piani alle Olimpiadi. Poi uccide la fata turchina sparandola attraverso la porta del bagno e viene arrestato. Pesticida nei pomodori, muore avvelenata larva di coleottero. Ucraina, arrestato il piromane che minacciava di dar fuoco al Mar Caspio. Il Papa Emerito Benedetto XVI ha annunciato che si dedicherà alla scrittura di un libro sul dialogo con l'Islam, dal titolo «Quando dormiva nel deserto, Maometto faceva sesso coi cammelli?». Scienza. I cactus crescerebbero più in fretta se accarezzati spesso, lo hanno scoperto alcuni ricercatori svedesi prima di morire dissanguati. Presentato al Salone di Ginevra, il prototipo del primo elicottero trattore, prodotto di nicchia, sarà destinato ai facoltosi miliardari con lobby dell'aratura. Matematica. Scoperto un nuovo numero intero tra il 3 e il 4. In Congo, una zoologa americana è riuscita a farsi accettare da un branco di gorilla di montagna e scoprire dove praticano il bodybuilding. E questo era il nostro TG Lercio a cura dell'Onda in Onda. Alla prossima puntata. Her people happy. Oh, she's avete tutti potuto apprezzare il TG Lercio. Io vi invito ancora a guardare il sito di questi ragazzi, lercio.it, autori di queste notizie che voi sentite tramite la nostra voce, il nostro TG. Ricordiamo ancora che il mio co-conduttore Antonio Manca è Antonio Manca, cioè Antonio virgola Manca, perché sennò sembrava nome e cognome per chi non lo conosceva. Ridiamo un attimo i contatti per rimanere in contatto con noi, iscriverci: radiopanorama.info.eu per la diretta streaming audio e video, poi sms al 380769024, infine Twitter e Facebook, twitter.com/ondainonda e facebook.com/londainonda per chi volesse rimanere in contatto con noi. Abbiamo annunciato in realtà nell'anteprima le interviste che avevamo, abbiamo già condotto interviste con il deputato di Sinistra Ecologia e Libertà, e adesso abbiamo invece per la nostra rassegna indie, rock e pop Uros qui al telefono con noi. Ciao Uros, come stai? Ci sei? Ciao, sì, ci sono, tutto bene. Tutto bene? Sì. Che tempo fa lì? Dove sei e che tempo fa soprattutto? Sono in Puglia e ti dirò, sta piovendo. Ma come? Domani è primavera. Bene, sì. Domani è primavera, ma non in Puglia. Sì, probabile. No, comunque dai, ogni tanto ci sta un po' di pioggia, no? E beh, ma abbiamo avuto tutto l'inverno. Ma fino a poco tempo fa, in realtà, fino ad oggi c'era comunque anche il sole, una certa. Addirittura. Senti, ma tutto questo tempo uggioso non ti fa sentire un po' claustrofobico? Claustrofobicronico forse. Forse claustrofobicronico, sì. Allora, vogliamo parlare di questo singolo del tuo album, L'amore è un precario. Sì, l'amore è un precario, perché come vedi anche il tempo è molto precario. Prima c'era il sole, ora c'è la pioggia. E sì, niente, L'amore è un precario è il secondo lavoro ufficiale, uscito il 28 febbraio, disponibile su iTunes. Un insieme di 11 brani. Fra cui claustrofobicronico, come dicevi tu, sì. Niente, l'amore è un precario. Perché l'amore è un precario? L'amore è un precario, nel senso che non sai mai come va a finire, non sai mai neanche se inizia, non sai mai, è un po' come la vita, l'amore è un precario, no? Anche la vita è precaria. E quindi perché non la vita è precaria? Perché proprio perché, l'amore? Perché quel giorno mi veniva l'amore. Perché quel giorno mi veniva l'amore. Quindi hai detto facciamo l'amore un precario. E invece il claustrofobicronico, io leggo, perché non ho avuto il piacere di vederlo, ma ne ho molta voglia. Il video nonsense. Io amo il nonsense, quindi... Sì, in realtà poi abbiamo sopravvalutato il concetto del nonsense per quanto riguarda il video. Cioè, perché... nel senso che hai trovato un senso al nonsense? Sì, in realtà c'è una non storia in quel video che non voleva neanche essere troppo didascalica rispetto al brano, però alla fine a livello di inconscio probabilmente abbiamo dato un senso alla claustrofobicronia. Ma... c'è un senso di malattia che niente si risolve che non si risolve. Ma questa claustrofobicronia cos'è in realtà? È una claustrofobia all'ennesima potenza, cronica. Ma rivolta verso cosa questa claustrofobia? Cioè... Ma alla fine di cosa parlano le canzoni? Di alcuni momenti in cui osserviamo, ci sentiamo bene, ci sentiamo male, ci sentiamo più chiusi. Claustrofobicronico comunque prende lo spunto anche da una stupidissima risonanza magnetica, cioè presente quell'oculo dove tu entri. Sì, purtroppo l'ho fatta, è stato veramente brutto. È stato brutto, sono arrivato quasi a premere il pulsantino per il panico. Ah, il famosissimo pulsantino, sì, del panico, sì, anch'io. Infatti in quegli istanti realizzi che devi avere tanta fantasia per restare lì dentro un quarto d'ora o giù di lì. Eh già. Niente, la claustrofobia è un senso di oppressione che a volte anche nei giorni qualunque ci sentiamo un po' più chiusi pur non essendo rinchiusi. È vero, su questo posso darti ragione. Senti, stiamo ascoltando in sottofondo Al mio funerale. Bello, perché? Mi piace. Perché Al mio funerale? Perché questa tristezza? Sì. No, in realtà ti dirò, al mio funerale è un sogno che ho fatto. Addirittura? Sì. E l'incubo qual è? No, non fu neanche così tanto un incubo, nel senso che nel sogno io morivo, perché capita, tanto moriremo cioè, tutti. Sì, è vero. Capito? È una cosa che capita, no? Sì. Oddio, c'è qualcuno che no. Tipo Andreotti, mi sa che non ce la fa. È immortale, è l'Highlander. Comunque, andiamo avanti. Eppure vedrai che toccherà anche a lui. Ma no, ma non ci credo. Senti, ascolta, poi mi richiami quel giorno, sì, va bene? Sicuramente. Comunque ti dicevo, questo sogno così è stato che nel momento in cui andavo su, non so perché questo ottimismo, che io andassi su, potevo andare giù, volendo, sì. E invece no, c'era questa linea di ottimismo nel sogno, e arrivando su, secondo la tradizione diciamo cattolica classica, ci dovrebbe essere San Pietro con le chiavi, con le chiavi. E ormai ti offre un caffè in realtà, perché diciamo che è stato commercializzato così tanto anche quello. Infatti. No, in realtà poi arrivavo lì e mi trovavo direttamente Dio con le mani tra i capelli. Addirittura. E lui mi diceva, guarda, non ne posso più, non lo voglio fare più io il Dio. Si è dimesso anche Dio, quindi hai anche predetto diciamo qualcosa e poi si è realizzato. Bravissimo, in questo sogno. Infatti, poi in realtà poi si è realizzato, diciamo che la massima carica istituzionale della Chiesa ha il rappresentante di Dio in terra ha dato le dimissioni. Sì, quindi sì. Potresti anche commercializzarlo questo album. Non so se è vero il sogno, però anche, è abbastanza. Potrei vantarmi di essere un profeta. È vero, è vero. Allora, senti, io vorrei chiederti due cose velocemente, visto che siamo quasi in chiusura con questa intervista. Tu hai condiviso il palco, vedo, con tantissimi artisti, tra l'altro molti di questi abbiamo intervistati. Uno su tutti, Modera City Ramblers, Cisco. Sì. Sei stato anche finalista regionale per Arezzo Wave. Quest'anno invece hai intenzione di... che cosa dovremmo aspettarci da te? Cioè, avrai intenzione di partecipare a qualche concorso? Sì, in realtà no, in realtà i concorsi li sto saltando tutti. No, ma non perché non c'ero con i tempi per quanto riguardava la fine del disco. Probabilmente parteciperò ad altri in cui posso ancora inviare il materiale. Poi per il resto sto preparando una scaletta dal vivo con degli altri musicisti. Quindi vai in tour? Ma andare in tour è una parola non grossa. Vai comunque, esibizione dal vivo. Sì, diciamo che ci proviamo a proporci, anche perché di sti tempi la musica dal vivo, soprattutto per, io non direi gli indipendenti, quanto piuttosto gli sfigati, no, è ma dai, è abbastanza improbabile. Noi, guarda, abbiamo intervistato molti di quelli che, come te, pensavano di essere sfigati o comunque erano emergenti, e posso dirti che alcuni di questi poi ce li siamo ritrovati conosciuti, sì, no, oggi no, conosciuti. Assolutamente. Cioè, premiati anche da prestigiose riviste e sì, concorsi. Quindi anche, ti auguriamo, infatti, tra l'altro, tanta fortuna. Grazie. Allora, grazie. Senti, allora, vuoi darci qualche ultima nota su questo album e poi ti salutiamo? No, dunque, questo album in realtà la gente può anche ascoltarlo sul canale ufficiale Uroz, che si chiama Uroz Music su YouTube, dove sono caricati tutti i brani. E poi per quanto riguarda Facebook, la pagina, diciamo, musicale Uroz, e poi c'è il sito ufficiale www.uros.com. Senti, ma Uros, che significa? Che significa? Che significa? Perché in siciliano potrebbe essere il ciccione. Il ciccione, Uros, il grosso. Uros. No, Uros è praticamente in dialetto di qui, è il rosso. Ah, il rosso, ho capito. Non è un nome d'arte in realtà. Non è un nome d'arte? No, praticamente è un'abitudine. Da quando sono piccolo mi chiamano così. Ah, quindi ti sei messo il soprannome che ti affibbino da piccolo. È un bel soprannome. Perché sono pigro, capito? Su questo lo condividiamo. Tranne quando sono in puntata, diciamo che è una cosa che condividiamo. Va bene, allora Uros, noi ti ringraziamo, ti facciamo tanti auguri, un grosso in bocca al lupo, e ci ascoltiamo il tuo singolo Claustrofobi Cronico anche per tutti voi. Ciao. Ciao. Claustrofobi Cronico.

non sono riuscito a capire che ruotare di 90 gradi un borsone cilindrico significasse ruotarlo. No, capito? Ruotarlo sempre messo tra sulla base, non cambiare la base, non girarlo, girarlo al contrario, come uno tra sotto e sopra, esatto. Quindi sono abbastanza un idiota. Posizione numero 6, World of Warcraft, l'uomo dell'universo parallelo. Mamma mia, la foto è veramente... C'è il famosissimo video del bambino che sta distrugge la camera dopo che la madre... Gli ha cancellato l'account di World of Warcraft. Separato da 8 anni ormai dalla realtà, il giocatore a World of Warcraft si distingue. Il giocatore di World of Warcraft si distingue dal normale essere umano per alcune caratteristiche fondamentali. Vive di notte e dorme di giorno. Assiste a funerali online che alle volte durano 2 ore, ma soprattutto può capire le parti del Signore degli Anelli in cui Aragorn e Legolas parlano in elfico senza usare i sottotitoli. Lui, il giocatore di World of Warcraft, la lingua degli elfi la conosce. E andiamo subito alla posizione numero 5 dei 10 anziani che giocano ancora ai videogames. Troviamo Pac-Man, l'anziano. Nostalgici incalliti, siete quei tipi che a cui quando si chiede come vi va, vi senti... Vabbè, ho sbagliato. Come si va? Come va? Vi sentite rispondere, va tutto male, non è più come quando c'era Pertini. E questo microfono davanti agli occhi mi fa perdere i pezzi delle parole. Che poi, magari, quando c'era Pertini, manco c'eravate, però vivete nei ricordi e professate grande amore per le cose semplici della vita. E in effetti a me Pac-Man ancora... Piace un sacco giocarci ogni tanto. Tu non ci giochi mai a Pac-Man? Sì, certe volte. Ora abbiamo un Ruzzle. Ruzzle. Anche che poi c'è anche quello su Facebook che è micidiale. Il nome è Zuffle. Zuffle. Sembra un qualcosa di... Vedi, non da, so. Da Pac-Man a Zuffle c'è sì, stata... Sì, ce n'è di evoluzioni. Ma chi potrebbe saperlo meglio di... Come si chiamava? Znang è Zu... Zu, i due amanti perfetti. Va bene, allora ascoltiamo subito. Abbiamo la pubblicità. La pubblicità e poi un ospite, quindi restate con noi. Siamo sempre dagli studi di Radio Panorama con l'Onda in Onda in questa folle puntata del mercoledì sera, perché ci sta ascoltando in replica. Sono che ora è? Mezzanotte e mezza. Questa volta ce l'ho fatta. Quasi l'una e mezza. Allora abbiamo con noi un ospite, caro Boom, vuoi presentarlo tu? Ma ce la fai? Riesci? Cioè, non è un mio compito. La stessa verve di Antonio. È difficile avere la stessa verve di Antonio. Di qualche notizia su questo ospite. Io non posso, però ospite motivi. Intanto è un ospite illustre perché è il rappresentante del collettivo Giancarlo Mattelli. Mattello. Non sbagliare, sennò lui poi si Mattello, scusa. Mattello. Io già chiedo scusa a Fidelio. È un comunista. Da Regarcioffoli. Di Regarcioffoli. Ed è un sindaco di Roccapalumba. No, lui non è il sindaco di Roccapalumba. L'avevo conquistato, ma viene qui, caro regista, viene qui per quale motivo? Il nostro caro Fidelio. Per far propaganda sul suo cineforum. Hai visto. Allora presentiamolo con l'inno, col suo inno, l'inno personale di Fidelio, possiamo dirlo. Io vado, così sì, lascio sì, il posto sì, vado, a Fidelio. Vado a chiamare, io metto l'inno. Se si sente l'inno, come al solito. Dovrebbe sentirsi l'inno comunista. Lui entra sempre. Internazionale. Vado così. Sì. Diamo il benvenuto a Fidelio Cusimano. Applausi per lei, Fidelio. Buonasera, cari ascoltatori della radio di Radio Panorama. Ringrazio Andrea che si è alzato e mi ha lasciato il posto. Sì, è solo oggi studio. Sì, non c'è Antonio. La devo intervistare io. Lei non la conosco. Come non mi conosce? Ah, lei è il regista. Sì, sono il regista. Il solito regista che c'è sempre. Quello di sempre, ma sì. Io non la vedo mai. Perché dall'altra parte dall'altra del vetro. Dall'altra parte non vedo chi c'è. È come il muro di Berlino. Ma il vetro è trasparente, Fidel. No, non è vero, lo dite, è la propaganda. Come di la propaganda? La propaganda di destra dice queste cose. Io ringrazio. Oggi per cosa è venuto? Lei, Fidel, per aver ricordato, e Andrea ricorda sempre il mio cineforum, visto che è quel maschiaccio di Panzica. Maschiaccio. In maniera bislacca, non ricordo mai. il mio impegno alla diffusione del neorealismo, il cinema. Il suo? Il mio impegno. No. Così è poco impegno. Impegno. Ecco. Alla, grazie, ha ragione. Alla diffusione del cinema neorealista italiano e internazionale, mondiale, veramente comunista, chiaramente, di questa stupenda iniziativa che stiamo svolgendo col collettivo Giancarlo Mattello, il collettivo universitario di noi ragazzi volenterosi studenti comunisti. Allora, noi oggi vorremmo parlarvi, sì, di un bellissimo, bellissimo film neorealista. Andiamo a proiettare questa sera nella sala Giancarlo Mattello del comune di Regalcioffoli. Il film è bellissimo, si chiama La mamma di Filippa. Di cosa parla? Di Filippa? La mamma di Filippa. Filippa? Filippa. Ah, Filippa. Filippa, una donna. La una mamma, donna. Una donna. Allora, La mamma di Filippa è un bellissimo film, chiaramente in bianco e nero, ma ogni tanto, il regista, anch'esso anonimo, non, purtroppo non conosciamo l'identità di questo regista. Anch'esso perché, scusi? Perché anche quello dell'ultima volta era anonimo, è un film anonimo e il regista anonimo. Cioè, noi non l'abbiamo detto perché non volevamo dirlo. Quindi è anonimo. Ma adesso è veramente anonimo, cioè abbiamo trovato questa bobina nelle nostre, nella nostra cosa avete trovato? Bobina. Con quante B? Con, dipende, ogni tanto, dipende quanto è grossa la bobina. Ah. Questa con 3 B, chiaramente. Abbiamo trovato questa bobina nella nostra sala dove ci riuniamo noi del collettivo Giancarlo Mattello per fare le nostre decisioni sul il film della settimana, e abbiamo detto ma c'è una bobina sul tavolo, vediamo sto film, e c'era soltanto il nome La mamma di Filippa. E quindi cosa non parla? Non sappiamo in realtà se poi c'entri qualcosa con la trama del film, perché in realtà si vedono due donne, ma si vedono solamente 5 minuti di questo film. Un come film 5 minuto, minuti? Quanto dura il film? Bianco e nero, dura 9 ore. 9 ore. Però noi presumiamo che la bombina non sia stata portata lì con l'intenzione di cioè era, magari era destinata alla mamma di Filippa, non era il titolo del film, però noi l'abbiamo detto ormai, il titolo è la è mamma restato di quello. La cosa bella dell'interpretazione che abbiamo dato noi di questo bellissimo film nel realista è che in 9 ore di bianco e nero ci sono quei 5 minuti di Technicolor. Technicolor. Technicolor, cioè quei cosi tipo pastello. Colori pastello dei film anni 70, sì. 60, 50, un po' tutti gli anni dei film, no? Un po' tutti, un insomma po' ogni tanto si è utilizzato questo Technicolor. Quei 5 minuti dedicati, no, a queste due donne, una più grande e una più piccola. Noi presumiamo che la più piccola sia chiaramente Filippa, Filippa e quella più grande è la mamma di Filippa, ma non sappiamo cosa si dicono perché mancano anche, no, quelle scritte nere dove facevano i dialoghi tipo Charlie Chaplin. Perché è muto il film, è muto, abbiamo detto, è muto. Quindi è muto in bianco e nero, dura 9 ore. Dura 9 ore questi 5 minuti di colori. In due tempi, immagino. Sì, in due tempi, chiaramente. Ma chiaramente la parte centrale del film, quella in Technicolor, è nella seconda parte del film. Per far restare il pubblico. Chiaramente, viva l'attenzione del pubblico e in tutto il resto. Tutto il resto sono passanti che incuranti dei pericoli a fianco. Come passanti? Sì, passanti. Cioè c'è l'inquadratura su una strada. Una strada, esatto. C'è un bar, un bar un po' alla Parigi. Questo bellissimo film racconta vita quotidiana dei astanti ad un bar mentre i passanti camminano, no? E le macchine vanno in senso inverso. Poi in 5 minuti passa queste due donne, si vede in questa camera. Noi pensiamo che il film in realtà sia un montaggio di un altro pezzo di film. È una cosa un po' strana, però abbiamo trovato questo bellissimo, bellissimo significato neorealista. Quindi o una bobina buttata lì, montata male, senza audio, oppure veramente un classico esempio di arte cinematografica che ancora non si era vista in una chiave comunista come abbiamo voluto interpretarlo, cioè tutto per tutto. Non sappiamo nemmeno noi il perché, ma questo contrasto, no, tra i passanti a piedi verso la telecamera, le macchine che invece e poi le donne si allontanano, che gli astanti al bar che guardano gli altri, le donne che parlano tra di loro, noi ci ha fatto venire in mente veramente il lavoro, il lavoro, il lavoro. La tematica del lavoro nel nostro partito. Quindi noi del collettivo Giancarlo Mattello vi invitiamo tutti quanti a venire al nostro cineforum universitario questa sera alle ore, questa sera chiaramente al verso le 10, 10 e mezza, nostro cineforum a Regalcioffoli. Appena siamo un bel numero, no? Incominciamo. Ah, okay. Non c'è problema. Esaurimento sala. E chiaramente chi non, cioè, finché non si esaurisce, non iniziamo. Quindi, porta a porta verremo a prelevarvi. Come nella Bibbia, i primigeniti venivano prelevati dalla mano di Dio. Noi del collettivo Giancarlo Mattello faremo anche questo. Quindi vi invitiamo a venire questa sera. Io vi ringrazio per questo spazio. Viva il comunismo! Viva Fidelio, me la lancia lei la canzone? No, che canzone devo lanciare? Io non sono pratico. Questo come non è pratico? Viene però da un paese capitalista. Io la lancio, se volete. È Brian Setzer con Summer Team Blues. Vi ringrazio, grazie. Bravo Fidelio, grazie. Grazie. Son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car, go right next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. No, you can't use a car, cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Torniamo subito in diretta dopo aver ascoltato Fidelio con i suoi folli film che vi invito a vedere e andare alla arena, presumo, di Regalcioffi, vedere questi film neorealisti pazzeschi, bruttissimi. E un altro caro amante dei film brutti che vi fa compagnia ogni settimana sta per arrivare, perché iniziano la rubrica dei film brutti. Credi di avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. Ed ecco con noi Marco, come va? Ciao Marco! Ciao grandissimi, tutto bene, voi? Benissimo, benissimo, oggi sono solo, Antonio, il mio co-conduttore, non c'è, ma ci siamo noi altrettanto validi, io e il mio regista, siamo qui tutti in ascolto trepidante per il nuovo film brutto della settimana. Cosa ci porti oggi? Allora, per festeggiare un po', l'elezione del nuovo Papa, andiamo su un horror dall'argomento vagamente, un po' religioso, ecco, che è Riti, magie nere e segrete orge nel 300. Scusami, questo è tutto il titolo. Riti, magie nere e segrete orge nel 300. Noi avevamo anticipato che era un film un po' medievalesco, però il titolo non l'avevamo dato per mantenere vivo l'attesa. La seconda parte del titolo è molto bella, Segrete Orge, perché? Beh, perché praticamente fondamentalmente abbiamo a che fare con una setta satanica che tramite sacrifici umani di giovani donne che appunto sedotte dagli adepti alla setta e che quindi prima adescate, diciamo, a pratiche sessuali diciamo promiscue e poi diciamo sacrificate appunto a Satana, si tenta di riportare in vita tale Isabella, che appunto nel 1300, accusata di stregoneria, era stata giustamente denudata e messa a rogo, sì, dai propri compaesani, che insomma non bastava metterla a rogo, bisognava anche denudarla. Ma spiegaci bene proprio tutta la psicosi malata di questo film, cioè come inizia, perché, qual è la trama, allora, nel suo profondo. Esatto, sì, diciamo, parlare di profondo della trama mi sembra un po' esagerato. Sì, vabbè, per dire. Comunque, fondamentalmente abbiamo una situazione, diciamo, di rievocazione del passato, nel senso che il film comincia con un ritrovo di svariate persone in un castello, molte ragazze tra l'altro ovviamente, che non si sa bene perché sono lì, che praticamente sono le stesse persone che nel 300 appunto impalarono e bruciarono viva tale Isabella. Chiaramente, diciamo, il film tenta un po' di giocare, no, fra alcuni, con alcuni flashback e con queste deliranti scene ambientate nel presente, in cui, diciamo, perché nel questi adepti appunto questa setta vogliono, non si sa perché, questo non è dato saperlo, riportare in vita questa Isabella. Infatti uno dei titoli, diciamo, alternativi di questo film è The Reincarnation of Isabel. Ah, che anche ma probabilmente non avevano i soldi per tutti i costumi e quindi hanno girato le scene nel presente. Esatto, sì, diciamo che la maggior parte delle scene sono ai giorni nostri, insomma. C'è qualche flashback appunto che riguarda appunto l'uccisione di Isabel. Tra l'altro veramente fatto malissimo, con costumi veramente inaccettabili, poverissimo, veramente i soldi erano veramente poche. Leggo anche il bestiario del film che compone questo bel film. Cioè, ci sono queste ridicolissime apparizioni di questi pipistrelli di plastica, non si fa niente per mascherare che siano finti i pipistrelli di plastica retti con il classico filo da pesca, insomma, veramente imbarazzante. Sì. E il grosso del film è composto, diciamo, da queste scene lisergiche, un po' psichedeliche, nelle quali diciamo, ci sono queste ragazze che vengono come ipnotizzate da questa, diciamo, da colui che muove un po' le fila, diciamo, di questa setta, e i volti vengono, diciamo, inquadrati in primo piano per lungo tempo, mentre, diciamo, le luci, il filtro, diciamo, di luce cambia fra rosso, verde e giallo. Questo per dare un po' questa dimensione di possessione demoniaca, ma che poi porta, diciamo, al sacrificio della ragazza. E le segrete orge, dove stanno? Le segrete orge, diciamo, c'è qualche inserto, diciamo, di qualche nudo, così. Così, diciamo, l'hanno chiamato segrete orge. Diciamo, sono queste ragazze che, diciamo, così, ecco, ipnotizzate dal capo della setta, diciamo, sì, un po' si denudano e compiono qualche movimento, qualche sospiro, ma poi in realtà, diciamo, ecco, di oggi c'è ben poco. Beh, essendo un film brutto non possiamo aspettarci di più. Leggo che è consigliato come terapia shock anti e pro epilessia. Perché? Sì, perché praticamente, diciamo, queste scene a cui facevo diciamo cenno prima, di queste inquadrature proprio i primi piani prolungati con queste luci che cambiano in maniera a volte lenta, a volte frenetica, chiaramente, diciamo, possono indurre o combattere l'epilessia, diciamo, è vero, esatto, attacchi epilettici, quindi insomma, quindi attenzione a chi potrebbe soffrire di epilessia. Allora, il titolo è Riti, Magie Nere e Segrete Orge nel 300. Marco, con cosa possiamo accompagnare questo film che sembra abbastanza reperibile, no? Me lo confermi? Sì, diciamo, c'è anche un'edizione in DVD che quindi, diciamo, può essere magari trovata, forse magari in qualche mercatino o magari in qualche negozio specializzato in questo tipo di film. Film brutti. Esatto. Dovremmo aprircelo comunque, un negozio specializzato in film brutti, Marco, mollare tutto e vendere film male brutti. Non sarebbe male. Con cosa possiamo accompagnarlo? Io lo vedrei bene con La caramella marrone altro mercato, che è una caramella che è, diciamo, particolarmente dolce e soprattutto particolarmente appiccicosa. che ha proprio questa capacità di attaccarsi a tutto il palato, a tutti i denti, diciamo, può spostare il disagio dello spettatore tra la fase oculare e quella, diciamo, orale, per un po' bilanciare, diciamo, il disagio e l'autopunizione che lo spettatore ha vedendo questo film. Diciamo. Allora, io non ti ho chiesto soltanto una cosa, se c'è una scena clou. Ma nel film assolutamente sì, che è appunto la morte di Isabel nel 300. Mm. La ragazza viene, che, appunto, diciamo, legata al classico palo, no? con la paglia sotto, sì, per essere bruciata, ma diciamo per prima si decide di conficcarle un palo nel petto. Ma perché? Normalmente perché la strega deve morire, no? Ma doveva morire bruciata, ma non ha senso. Ma fondamentalmente, diciamo, lo scopo di Polselli, del regista, è far vedere chiaramente il seno dell'attrice, chiaramente mostrare il seno nudo dell'attrice. Ma la cosa strana è che il conficcamento di questo palo nel cuore non provoca la morte immediata della poveraccia, che si lamenta per 8 minuti consecutivi. Madonna. Di film. E quindi, diciamo, quindi è uno stress vederlo. Sì, veramente è uno straccio incredibile. È proprio brutto, 8 minuti di lamenti. Brutti, 8 minuti consecutivi di lamento. Sta avvenendo una voglia pazzesca di vederlo, quindi riti, magie nere e segrete orge nel 300, scaricatelo. Se volete autopunirvi, film del 72 della regia di Renato Polselli. Che ha fatto qualche altro capolavoro o si è fermato qui? Sì, c'è il famosissimo, so per dire, film, sì, dal titolo Rivelazione di uno psicanalista sul perverso mondo del sesso. Quindi, diciamo, sempre lì buttato lui. Esattamente, Polselli, insomma, ce l'aveva abbastanza alta la situazione. Sì, sì, notiamo. Va bene, allora, Marco, ti ringraziamo per questo stupendo capolavoro, invito tutti quanti Grazie a scaricarlo, a lo metteremo nella nostra pagina Facebook per chi vuole avere altre notizie su questo film, può andare anche sul sito filmbrutti.com. Marco, grazie ancora, ci vediamo la prossima settimana. Un anticipo sul film della prossima settimana? Penso che torneremo in Vietnam la prossima settimana. Che figata, va bene, allora mi piace, il Vietnam mi è sempre piaciuto, soprattutto nei film brutti. Marco, grazie ancora, ci ascoltiamo subito il prossimo pezzo. A presto. Ciao. Ciao. siamo in chiusura, dobbiamo finire la nostra classifica dei 10 anziani che giocano ancora ai videogames. Ricapitoliamo dal decimo posto. Al decimo posto abbiamo Super Mario Bros. Al nono posto Duke Nukem. L'ottavo posto invece lo conquista Street Fighter. E al settimo posto abbiamo il sempreverde Tetris. Poi al sesto posto World of Warcraft. E poi al quinto posto Pac-Man. Ci eravamo fermati e andiamo subito al quarto posto con Gran Turismo. L'autista, questo è il tipo che conosce la sua macchina meglio di se stesso. Ragiona come la macchina e guida come nei videogame. È anche quello che il più delle volte si fa riprendere dai suoi amici con i telefonini per dimostrare il suo talento al volante, finendo solo con il consegnare all'umanità qualche altro glorioso epic fail. E andiamo al podio. Al terzo posto abbiamo Final Fight, giocato dal bullo. Sei un tipo rude, ti piace burlarti dei più deboli. In Final Fight sceglievi Agar, con cui facevi bullismo virtuale. Dopo aver sistemato i nemici, rifilavi qualche sana sberla anche al tuo amico per ricordargli di non farla fuori dalla tazza. Godevi nel prendere gli avversari e stringerli al tuo petto per stritolarli. E andiamo invece alla posizione numero 2, Shinobi. Io non ho mai giocato a Shinobi, non so cosa sia. No, tu nemmeno hai... io, sinceramente, la prima volta lo sento. Però è il ninja, giocato dal ninja. Da piccolo temevo gli incalliti che giocavano a questo titolo più di 3 ore al giorno. Scrive chi ha fatto questa classifica: non erano come i fan delle tartarughe ninja, cicciotti e pacioccosi, erano seri. Se ne sbattevano del bianco cane di Shadow Dancer che avrebbero ammazzato volentieri. Loro ti arrivavano alle spalle e ti prendevano per la gola. Spero di non incontrare quindi mai un giocatore che ha giocato a Shinobi. E poi alla posizione numero 1, rullo di tamburi, Zelda, il collezionista di Ose. Vedo qui dietro lo schermo Serena che sorride per Zelda. Non sorride mai Serena in realtà, ma per Zelda diciamo gioca, è una classica giocatrice di Zelda. Vediamo se appatta, appatta come possiamo tradurre appatta, caro regista? Ma appatta dal siciliano, difficile da tradurre, è difficilissimo siciliano. Tradurre appatta, come potrebbe tradurlo veramente? Cioè, quello che dà proprio il suono di appattare. Se è somigliante. Non è neanche parallelo. È qualcosa di più. Cioè, è l'esatta copia. È un'uguaglianza. Ma vediamo. Il collezionista di ossa è il giocatore di Zelda. Se ti piace Zelda, allora sei un collezionista. Sei un pazzo e non ti fermi davanti a nulla. Vuoi collezionare tutto, dalle sorpresine dell'ovetto Kinder fino a foto di sconosciuti come in Amelie. Nel tuo immaginario sei un figo, però in realtà sei proprio come nell'immagine a fianco. E a fianco c'è un nerd con un sacco di videogiochi, pupazzetti e una maglietta idiota che fa il segno della del tutto ok o vittoria. Vabbè, non si sa bene che segno faccia, ma è contento delle sue collezioni di giochini e di tutti i videogiochi vari, pupazzetti eccetera. Va bene, noi abbiamo concluso la nostra classifica. Vi auguriamo di non essere mai un giocatore di Shinobi. Cioè, ci auguriamo che voi non siete mai giocatori di Shinobi. Sei un bimbo ninja. Ninja, esatto. Quindi il nostro più preciso auguri. Il nostro più preciso non significa auguri. Niente. Tu hai in mente le lingue. Sì, no, perché vabbè, sono i miei occhi che leggono le parole e le dicono mentre è il folletto. Non dovrei dire. Ecco, appunto. Va bene. Continuiamo. Finiamo questa puntata ingloriosamente. Ci ascoltiamo colui che ha fatto la nostra sigla iniziale, ma ci ascoltiamo in realtà un altro suo pezzo. Ci ascoltiamo Piotta con Piotta è morto. The country jail, ma te Regina Shelley non t'ho visto mai. Quella volta che stavi al Gay Pride, non lo voglio sapere che ci hai fatto ormai. Non me fai il giaguaro, non me fai il campone, non sei più il ghepardo del 99. Ma che fine hai fatto? Ho strafatto di qualche schifezza, lo dico con molta franchezza, che tanto non sei caparezza. Brr, Piotta, Piotta, ti levo dal mio stereo che la sfiga è troppa. Sono il quinto nel re della sfiga, bro. Chiama lo suono diverso, per me sono sfiga, bro. La sfiga non c'è, la bamba non c'è, ma Piotta dov'è? Piotta è morto, il pezzo non c'è, lo stile non c'è, ma Piotta dov'è? Piotta è morto, la porta non c'è, la grana non c'è, ma Piotta dov'è? Piotta è morto. One, two, party, sesso e rock and roll. Ma taglia dei capelli se vuoi falli un po'. Fate un tatuaggio, fate tutto il braccio. Fate almeno un suf che respira da voraccio. Viva Palura come Elvis the Pelvis. Ma tu sei romano, mica sei de Memphis. Al privé senza te con la grana e il moè. Papa fighe epiche, mio tutto il club. Your name is what? Your name is who? Your name is fuck you. Tu spacci